alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Claudio Bigagli legge Il deserto della Libia di Mario Tobino. I soldati, quando sentono il richiamo del divertimento, dimenticano tutto. Gli altri medici erano andati a palazzo da Mahmud. Pilli era rimasto solo con i soldati. Fece il bagno. Mandò a prendere una vaschetta di latta che avevamo, una bagnarola buona a contenere 7 litri d'acqua, e la fece mettere davanti alla sua tenda. Si levò i calzoni, rimase con i piedi, le gambe, le cosce nude. Tenne solo la camicia e sopra il gilet grosso di banconote. Mise una sedia davanti alla bagnarola, mise i piedi nudi dentro l'acqua, lui seduto. La pelle e la carne di Pilli erano bianche. Egli pacciugava con i piedi e cominciò a invitare i soldati, che abitavano nelle tende vicine alla sua, ad ascoltarlo, che le sue parole erano allegre. Infatti alludeva, in modo acuto e popolaresco, alle cose sessuali. Si fece siepe intorno a lui, con le gambe dentro la bacinella. Egli diceva, i soldati come coro ridevano appena che egli aveva smesso di dire, nell'intervallo tra una battuta e l'altra. Pilli era felice. V'era un'armonia, una precisa dipendenza. In quel momento era veramente il capo. Un'assoluta, spontanea disciplina. Alzava la bacchetta, diceva la battuta, che era legata alla precedente. Giù le risate, come uno sciacquone quando si tira la catenella. Felicemente, con naturalezza, a Pilli sprizzavano le immagini burlesche, e queste progressivamente portavano lui e i soldati nel mondo anarchico e libero che sempre nel mondo apparisce e apparirà per brevi secondi gioioso. E presto, dalla vita bigotta di nuovo, è messo sotto il pelo dell'acqua. Dunque aveva una siepe attorno di soldati, lui soldato esistente nell'accampamento, quale ufficiale e comandante. Egli aveva coperto il sedere, bianchissimo e morbido, dalla camicia, perché era seduto sullo sgabello davanti alla tinozza, ma se l'alzava, e come una ballerina che alla fine del ballo agli spettatori rivolta il deretano e tira su il farsetto in modo che lo vedano, se egualmente come la ballerina faceva questa mossa, egli facendo volare verso l'alto il cencio della camicia, allora i soldati l'avrebbero visto. Egli dunque, essendosi molto eccitato per le parole e le risate, fece questa mossa, e i soldati videro il suo sedere. Dopodiché Pilli, messosi in piedi dentro la bacinella, ammiccò un inizio di danza. Ormai non era più il comandante, era uno di quei puttini che volano nei quadri, liberi e felici, intorno alla testa della Madonna. Si svolgeva il dopopranzo nell'oasi candidamente, fuori dalle leggi. Pilli e i soldati erano creature umane che si divertivano. Chi adesso si mette a fare il giudice con la grinta annerita, costui è nello sbaglio. Era Pilli. Oscar Pilli era sadico, maniaco, era frenastenico, aveva la fuga delle idee, la smania dell'inconsulto. Era simpatico, era felice, era geniale, era istintivo. Era ladro. Aveva degli spettri che lo perseguitavano. Era un puttino con gli occhi celesti. Era toscano corrotto. Aveva il fisico forte. Era avaro. Non sapeva riflettere, non poteva pensare, non sapeva la morale, non conosceva l'amore, non aveva amici, non aveva cuore, era infantile. Si dimenticava e aveva una memoria di ferro. Un antico toscano, un cattolico toscano. Lui non pensava, non rifletteva, non poteva, non amava. L'amore è pensiero, la vita è amore, gli uomini sono fratelli. Pilli era vigliacco. Pilli era un vigliacco. Non sapeva, non conosceva, era un idiota, era un sadico. Sapeva la lingua italiana, era toscano. Era un corrotto toscano. Aveva il fisico forte, non conobbe mai la tristezza. Sempre fuggiva, le sue immagini fuggivano, idee fuggivano, esse non erano sue. Pilli era pazzo, tutti potevano accorgersene, era effettivo, era di carriera, sapeva il regolamento, non amava, non aveva cuore. Era toscano, Pilli era pazzo, I colonnelli se ne potevano accorgere. Pilli non comprendeva, non amava, non si fermava a riflettere. Pilli era Pilli, Oscar Pilli, corrotto toscano, toscano corrotto, marcito cattolico. Pensammo di eliminarlo, perché inoltre, se venendo la guerra arrivavano alla sezione i feriti, che cosa avrebbe fatto il comandante Oscar Pilli? Eliminarlo si poteva fare soltanto attraverso la burocrazia sanitaria della milizia. Lo facemmo. Uno di noi andò a Tripoli. Avvicinò e poi si mise all'orecchio di un segretario della direzione di sanità e disse le novità su Oscar Pilli. Costui tentennò a crederci, come quando a un grande gli raccontano una storia di fate. Poi, divertendosi, ci credette. Il giorno dopo fu lui a pettegolezzare al suo superiore, che si stupì e si divertì. La strada dunque che noi seguimmo era quella solita che ci insegnarono. Non facemmo reclami ufficiali, non esponemmo il petto, bisbigliammo, chi operò era nella divisa consueta. Il pettegolezzo dunque si sparse alla direzione di sanità, che c'era un capitano medico chiamato Pilli, che cantava messa nel deserto, tirava presso le cazzeruole pacchetti eleganti, saltava come uno stambecco innamorato. Ci comportammo da consumati toreri. Prima si doveva far nascere il pettegolezzo, poi quello stesso avrebbe figliato. Infatti, dopo che i signori colonnelli medici si furono divertiti parlando, seduti alla mensa, delle creazioni di Pilli, poi, quando furono soli, sorse meccanica e agghiacciante la domanda: ma se Oscar Pilli combina, essendo pazzo, qualche cosa di grosso, di madornale, in una unità di prima linea, sul fronte di guerra, di chi è la responsabilità? Noi ormai lo sappiamo. Non solo noi, tutta la direzione superiore lo sa, dai sottotenenti a noi colonnelli. Ormai la notizia è diffusa, tutta la numerosa mensa degli ufficiali medici conosce le azioni di Pilli. Se costui combina qualche cosa di grosso, di chi è la responsabilità? Noi ne siamo informati, anche se non ufficialmente. E a questo punto i colonnelli rimanevano sospesi e irritati, mentre nel silenzio della camera si stavano sfogliando, vicini a entrare nel morbido letto. Già, questi ufficialetti ne ridono, ma i responsabili saremmo noi. E aumentava la loro irritazione sempre più che consideravano il fatto. Dunque, avevamo ottenuto questo. Se era nato il pettegolezzo su Pilli alla direzione di sanità, Pilli l'avevamo presente noi, ma anche loro. I signori superiori sapevano, anche se non ufficialmente, che un capitano medico, genericamente pazzo, comandava una sezione di sanità per la quale in tempo di guerra passano tutti i feriti di una divisione. Ci fu chi pensò che i signori superiori, dopo che il pettegolezzo si fosse fatto carne, sarebbero stati costretti a provvedere. Ciò che avvenne. E avrebbero a loro modo provveduto, non per la giustizia, o per far andar bene l'esercito, o perché avevano dispiacere che i soldati soffrissero delle intemperanze di un pazzo, ma essi avrebbero provveduto esclusivamente per timore di averne un loro personale danno, perché esclusivamente, essendo superiori, la burocrazia le indicava responsabili di tutto ciò che non fosse prono, regolare. E Pilli era un irregolare. Avvenne dunque che i due colonnelli medici, che infatti due ve ne erano insieme a comandare la sanità della Tripolitania nel tempo di Pilli, si concertarono e trovarono, come non poteva non essere, l'unico e il solito modo. Fecero un'ispezione alla sezione di sanità. Cosa credevano di trovare? I soldati che camminavano sulle mani, come nei disegni dei giornali umoristici quando vogliono rappresentare l'interno di un manicomio? Arrivarono nel dolce mattino, quando la nebbia della Tripolitania comincia a sfioccarsi, uccidendole il sole. Arrivarono con l'automobile, scesero. Tutti e due avevano la pancia che promineva la divisa. Uno era molle, sfuggente, con gli occhi chiari. L'altro era bruno, calabrese. La sezione, appena essi scesero, si ordinò. I soldati avevano tutti più di 30 mesi di vita da soldato, sapevano cosa si doveva fare quando per pochi attimi ci sono i superiori, i capi che vengono a fare visita. Tutti salutarono bene, con rapidità aggiustarono le tende, corressero le divise. Qualcuno che in quel momento era impresentabile si nascose. Vi fu silenzio per l'accampamento. i colonnelli non arrivarono al centro dell'accampamento che tutto era in ordine. I soldati avevano capito che c'era qualcosa per l'aria, che qualcuno si era mosso per far cessare Pilli. Erano attenti. Ora che i due colonnelli si erano presentati, erano anche più attenti. Se il soldato italiano è stimolato nell'attenzione, diventa in quei momenti pieno di pregi. Così si dimostrò. I due colonnelli guardarono se l'accampamento era pulito, se la tenda di medicazione era in ordine. Innanzitutto sfogliarono il quaderno dei chiedenti visita, il registro di carico e scarico, i fogli, le scritture, le frasi. Tutto era in ordine perfetto. Pilli non aveva dimenticato alcun timbro. Pilli era un innamorato del carteggio, dei quaderni, delle sottolineature, della procedura. Apparve in quei documenti la sua passione. Per poco i due colonnelli non si innamorarono di quelle circolari, dei registri, eccetera, tenuti con tale meticolosità, e innanzitutto così lavorati, contrassegnati, letti e riletti. I signori colonnelli sapevano soltanto il mestiere dei registri. Questi erano perfetti. Chi aveva allora osato dire che Pilli era matto? Era un'ignobile falsità. Pilli poteva anzi essere un colonnello come loro. Questo in segreto. Si misero a pensare i due colonnelli. Avrebbero potuto invece semplicemente domandare: è vero che il signor capitano dice la messa cantata? È vero che egli ruba gli occhiali? È vero che per tutto il giorno farnetica e alterna l'abbraccio fraterno alla minaccia di fucilazione? È vero che i suoi bagagli, arrivati semivuoti, stanno riempiendosi degli oggetti più impensati? Invece, queste domande non sorsero dentro di loro. I due colonnelli ispezionarono se c'era la polvere sopra il mobile, non curandosi affatto se il mobile era storto, tarlato, inservibile, o se anche era un mobile. Visto che polvere non ce n'era, irritato, il colonnello con gli occhi chiari, morbido di carne, col suo ampio e bianco sedere, si diresse, mentre Pilli era interrogato dall'altro colonnello, verso di noi ufficiali che formavamo un piccolo gruppo in attesa da un lato. Con voce sottile e ghiaccia domandò chi era che era stato alla direzione di sanità a raccontare quelle storie. Costui si fece avanti. Egli lo guardò malignamente, come avesse scoperto un piccolo ladro, e gli disse che sarebbe stato punito. Che era chiaro che egli aveva in tal modo agito per eliminare Pilli e mettersi lui al comando. Questo era il nostro secondo insuccesso. Il primo era già capitato col capo di stato maggiore della nostra divisione. Uno di noi nei primi tempi era andato da lui e aveva riferito sulle stranezze di Pilli. Egli aveva ascoltato in silenzio e con severità. Si pensò che avrebbe agito. Dopo un mese, come risposta, c'era ancora il silenzio. Per questo avevamo pensato di portare la cosa direttamente alla Direzione Generale di Sanità. Il risultato fu negativo. Però qualcuno, ostinato, continuò a pungere. Ritornò costui dallo stesso segretario della direzione e gli espose inequivocabilmente, gli illustrò con precisione dove fu lo sbaglio della visita dei signori colonnelli e quale, e qui alluse soltanto, la loro povertà logica e morale. Agì in tal modo costui che il segretario imparò senza avvedersene la matematica della questione e, imparatala, per gloriarsi di quell'acume, egli, come era stato previsto, a tavola, quando tutti gli ufficiali medici erano piacevolmente con spavalderia riuniti, ripeté quei ragionamenti e di nuovo gli astanti si divertirono e questa volta anche compresero. E i colonnelli lentamente anch'essi capirono e nuovamente sorse in loro la stessa precedente conclusione. Che se insomma Pilli combinava qualche grosso pasticcio, loro sarebbero stati responsabili, e soltanto loro. E qualche cosa dovevano fare. Thank you. Pilli ricevette l'ordine di presentarsi a Tripoli per la visita medica, perché era malato. I colonnelli gli avevano, senza che lui lo sapesse, fatto chiedere visita. Arrivò nel sole un motociclista con un biglietto. Pilli, davanti alla tenda, lo lesse. «Inaudito», pronunciò. C'era scritto che il giorno dopo si doveva presentare all'ospedale militare di Tripoli per essere visitato. «Ma io sto benissimo, carissimo», disse al motociclista che si accingeva a partire. «Aspetta», aggiunse, «c'è uno sbaglio». E mentre rileggeva il biglietto mormorò, «per il bene che ti voglio», è inaudito. E l'inaudito gli morì sulle labbra. La sua grossa testa aveva cambiato il colore della pelle, che si era irrorata di rosa come un neonato tolto dal bagno. Sembrò in quel momento Pilli sorto allora al mondo, stupefatto, e aggiunse, «è uno sbaglio, carissimo». Il motociclista si era già allontanato. Si trovò ad aver chiesto visita in mezzo al sole, mentre era in splendida attività. Col biglietto in mano rientrò nella tenda di medicazione e, avvicinandosi al soldato che nudo aspettava che lui ritornasse per farsi visitare, gli disse, «ecco, guarda», porgendogli il biglietto. «Leggi, caro, ma leggi, è inaudito!» E strappandoglielo di mano, a lui che stupito si accingeva a leggere chissà che, e porgendo il biglietto, cioè l'ordine di presentarsi a Tripoli, agli altri scritturali, disse a uno di questi, «leggi, guarda, ti dico di guardare!» Agitava nell'aria il biglietto, ormai avviato a spiegazzarsi senza consegnarlo a nessuno, sicché il soldato nudo e gli scritturali guardavano Pilli, in attesa, non sapendo che indovinare, e conoscendo Pilli, non stupendosi. Ma iniziò qualche barlume, poiché allora Pilli disse, «io sto benissimo, è inaudito, mi fanno chiedere visita, guarda, leggi!» E finalmente dette nelle dita di uno scritturale il biglietto perché lo leggesse. Ed egli, leggendolo così, nella fretta, e tra quelle esclamazioni pilliane, capì ben poco. Ma Pilli glielo aveva già ripreso di mano, e già, come la ragazza col piattino, alleata a quello che suona l'organetto, va in giro perché gettino dei denari, così Pilli andò in giro per l'accampamento perché assentissero alla sua ragione, che era una cosa mostruosa mandarlo all'improvviso a Tripoli, doversi lui presentare malato in ospedale. Lui, Oscar Pilli, che mai così bene era stato, mai più d'ora che era comandante assoluto, proprio a lui gli si mandava un foglietto dicendogli che era malato. Ma nel serpeggiare elettrico di comunicare a tutti questa notizia, con la solita subitaneità gli si inframmise il pensiero che qualcuno era stato, qualcuno aveva comunicato, qualcuno lì dentro aveva istigato. E così, pur continuando nel giro, ebbe delle curve su se stesso, fermò a più riprese le sue parole, ingigantendogli sempre più il sospetto. E incominciò, nelle pause dipendenti da tale folgorazione, «tu mi capisci chi è stato?» e muoveva il pollice nell'aria in direzione delle tende degli ufficiali. E cadde in questa notizia che aveva impadronito tutto l'accampamento l'ora del pranzo. E Pilli vi si trovò a sedere col viso rosso come una luna, col foglietto ancora in mano, con le parole che gli uscivano dalla bocca come da uno strappo del sacco la candida farina. La mattina dopo, sull'autocarretta guidata dal fedele Capone, si avviò a Tripoli. Si presentò ai superiori, che questa volta erano per di più superiori diretti, essendo medici. Si mise mille volte sull'attenti, frenò le sue fraterne frasi, che però, rimasto solo con gli scritturali, si ruppero come una diga. Ma innanzitutto si incontrarono e innanzitutto si fransero nella sua mente le più lucenti, rapidissime immagini, nessuna delle quali era compiuta, ma tutte iniziate vividamente, subito spente, perché la folla delle altre spingevano, reclamando imperiose la vita, a loro volta morte delle altre che in furia sopraggiungevano. Lo visitarono tutto. Lui che ripeteva subordinatamente che stava benissimo, che mai così bene come allora non era stato. Gli fecero passare i raggi, gli esplorarono la gola, gli fecero l'esame delle urine, l'esame del sangue, l'esame neurologico. E ritornò la sera all'accampamento, la testa colorata di rosa per le tempeste mentali che c'erano state dentro. Disse, «M'hanno detto che sono un po' esaurito. Lei, signor capitano, è un po' esaurito, ha bisogno di un po' di riposo». «Carissimi, cosa avranno voluto dire?» «Nient'altro». «Non hanno detto nient'altro?» Lei, signor capitano, è un po' esaurito. Il colonnello, è stato il colonnello, severissimo. Spogliatevi. Per i riflessi non potevo stare quando mi batteva sulle ginocchia. Ridevo. Lui dice, non ridete. Ridevo, quel martelletto, era tutto nudo. Spogliatevi nudo. Un colonnello severissimo, severissimo. Cosa avrà voluto dire? Siete un po' esaurito, carissimi. Sì, signore, ma veramente sto benissimo. Colonnello, gli occhi, severissimi. E Pilli, come una macchina in folle, come una scia luminosa, continuò. La mattina dopo arrivò un motociclista con un biglietto nel quale c'era scritto, inaudito, che Pilli aveva avuto 2 mesi di licenza di convalescenza. Analizziamo questi 2 mesi di convalescenza. Cosa era successo nelle teste dei 2 signori colonnelli? Avevano ragionato così. Ormai tutti sanno di Pilli. Se costui combina qualche cosa di grosso, noi non possiamo dire di non averlo saputo prima. Allora allontaniamolo. Che pesi sulle spalle di qualcun altro. Mandiamolo in Italia. In Italia se lo sbrighino loro. Preghiamo un momento di attenzione su questo ragionamento dei 2 colonnelli. Se avessero voluto fare il bene dell'esercito, avrebbero dovuto eliminare completamente Pilli, avrebbero dovuto radiarlo dai quadri dell'esercito. E si sapevano con assoluta certezza che era matto. Come può un matto comandare una sezione di sanità o un'altra qualsiasi cosa? Ma essi non volevano fare il bene dell'esercito, cioè di tutti. Essi volevano il bene di se stessi, cioè levarsi ogni responsabilità sul caso Pilli. Per ottenere questo, ecco la costrizione della visita medica ed ecco i soli 2 mesi di licenza di convalescenza. 2 soli mesi, cosicché Pilli, allo scadere dei 2 mesi, sarebbe andato, e infatti ciò avvenne, in un altro reparto e, dato il suo grado, avrebbe ripreso il comando, avrebbe prodotto ciò che aveva già nel nostro. E così la storia sarebbe continuata, come già da tempo continuava. E infatti, prima che con noi fu in Spagna, dove dovette succedere qualche cosa di simile, perché fu rimpatriato, prima ancora fu in Abissinia, e poi fu al distretto, dove il suo sadismo trovò un soffice guanciale. E così via. Gli dettero non più di 2 mesi. Era chiarissimo che Pilli era incapace, deleterio per un esercito. Ma i signori colonnelli gli dettero 2 mesi di licenza di convalescenza. E le ragioni di questo trattamento sono queste. I colonnelli sono ufficiali effettivi. Pilli, ufficiale effettivo. Appartengono alla stessa casta. Tra loro non si danneggiano, si proteggono, qualsiasi cosa sia accaduto. Inoltre, nell'esercito italiano c'era l'abitudine di scaricare su altri, di rinviare ogni questione, di non prendere mai una precisa e definitiva decisione. Pilli a V combinava dei guai, il colonnello pensa di levarsi quell'ingombro e lo spedisce in Libia. In Libia Pilli crea delle difficoltà e i colonnelli della Libia lo rispediscono a V. Di dove quel colonnello lo rimbalzerà altrove? Nessuno lo elimina. Ognuno lo mette nelle braccia di un altro. Intanto Pilli si riempie il petto di nastrini, poiché ogni guerra che capita ci sta 3 mesi, giusto il periodo per farsi completamente conoscere, e ogni volta se ne va come un colpito dai disagi della guerra, parte sempre con la nave o il treno ospedale, è un nobile invalido di guerra, e naturalmente durante i mesi di convalescenza ha gli assegni, le indennità di guerra, come malato di guerra. Naturalmente, poiché ha fatto 3 mesi di campagna, ha diritto al nastrino. E il suo eroico petto si macchia di altri colori, i quali nastrini lo fanno ancor più rispettare nella prossima sua campagna e ancor più nella prossima sua licenza di convalescenza sarà trattato con quel riguardo che si deve a un uomo tale, eroico di tante guerre. Per queste ragioni, dunque, i due colonnelli medici, direttori della sanità della Libia, affibbiarono furbescamente 2 mesi a Pilli e il solito motociclista portò un ulteriore foglietto dove c'era scritto il giudizio medico legale. L'ultima sera fu l'addio. Non era più comandante. Il comando era passato al più alto in grado dopo Pilli, cioè un tenente. Si mangiava la sera nell'interno della casa araba. Il cielo di stelle era sopra di noi. Silenzio e profumo nell'oasi. Il soldato di cucina da noi istruito, quando Pilli per primo, come al solito, entrò per la cena, rispettosamente gli disse che il suo posto non era più a capotavola. Quello era per il comandante e gli indicò l'attuale suo posto alla destra del comandante. Giustissimo, carissimo, e si mise a sedere. Ancora non era arrivato nessuno, ma presto alla spicciolata anche gli altri arrivarono. Gli fecero appena un cenno di saluto. Stettero in attesa della cena, zitti, come se Pili non ci fosse o non valesse la pena di notarlo. Mancava il comandante. Entrò, come un monarca. Dalla porta della casa araba alla tavola, che era illuminata da diversi lumi ad acetilene, v'era un certo spazio. Gli ufficiali, appena lo videro, rapidi come acutamente svegliati dall'elettricità, si alzarono, divennero rigidi, guardarono fissi, salutavano il superiore. Il comandante lentamente si avvicinava. Pilli, rimasto seduto, si trovò con la testa anche lui fissa, guardava rapito quel glorioso rito. Il comandante si avvicinò benevolmente, fu al capo della tavola, era divenuto severo, sembrava che aspettasse qualcosa. C'era il più gran silenzio. Pilli fu incerto, si staccò dalla sedia, il suo corpo si allungò lento, come non sapesse ancora perché. Improvvisamente Pilli salutò, rigido, gli occhi fissi nel vuoto. Il comandante rispose al saluto, poi fece un cenno, tutto si sciolse, cominciava la cena, non si sapeva che era stato. Pilli, ancora sbalordito di quel che aveva fatto, di aver salutato lui, capitano, per primo, un tenente, si trovò di nuovo sulla sua sedia e timidamente, come un fanciullo che tenta un'affettuosa confidenza, disse: che disciplina, appena sono andato via io. Ma gli uomini, che sono sempre gli stessi, che non ne vogliono sapere di capire, poiché Pilli non era più il comandante, si sfogarono delle sue intemperanze passate e cominciarono subito i proiettili da tutte le parti contro di lui. E tu Pilli, perché facesti? Tu hai fatto, tu Pilli. E lui, sbalorditissimo come un bambino che gli han fatto abbandonare i giochi e lo costringono a camminare per la strada deserta, improvvisamente da ogni parte gli vengono addosso porte, calcinacci, finestre, mattoni, così lui, sbalorditissimo, si parava verso ognuno e rispondeva infine con il pianto alla gola. Fu la prima volta, e non era dolore, ma meravigliato sgomento, e ripeteva a ognuno: sì, carissimo, ma no, come un fratello, se per me come un fratello. E non sapevano che Pilli non aveva memoria, viveva solo per gli attimi del presente, attimi che apparivano e scomparivano. Non c'era più né presente né passato. Oscar Pilli era un astro, gli altri, opachi satelliti, si muovevano intorno a lui. Dovevamo entrare nel suo mondo, nel suo cerchio, esser felici. Un altro si presentò, trafelato e grondante di sangue. Perdemmo un uomo come Oscar Pilli. Claudio Bigagli ha letto Il deserto della Libia di Mario Tobino, a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini, regia di Francesca Zammarelli, ad alta voce @rai.it.